cosa ma tu ne la a non essere geloso se con gli altri ballo dress, a non essere furioso se con gli altri ballo rap, con te, con te, con te che sei la mia passione, io ballo il ballo del mattone. Con gli altri